Savonarola, il frate che sgridò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu ministro della pubblica istruzione nel 1892, e lette oggi da me, che sono analfabeta e di conseguenza non riconosco un ossimoro. D'altra parte, la pietra del ministro a reo non giova, ed è pur meglio essere mendicante che ignorante. Serio. Capitolo 10. Mo Savonarola, ben ti voglio! Nell'aprile del 1492, inaspettatamente, troviamo Savonarola lontano da Firenze. Egli infatti era a Pisa, dove fece alcuni sermoni nel monastero di Santa Caterina e strinse amicizia con Stefano da Codiponte, che fu poi uno dei suoi più fedeli ed affettuosi seguaci. Nella quaresima del 93 è più lontano ancora, giacché predica a Bologna. Sembra che Piero dei Medici, annoiatosi di questo predicatore troppo popolare e intorno al quale si radunavano i suoi nemici, lo facesse per mezzo dei superiori di Roma o di Milano allontanar qualche tempo da Firenze. A Bologna il Savonarola predicava però di malavoglia. Mandato via da Firenze come troppo amico del popolo, si trovava in città governata dalla ferrea mano dei Bentivoglio. Bisognava dunque tenersi assai stretto nei limiti. Obbligato ad un predicare tutto contrario ai suoi impulsi, riuscì freddo e lo chiamavano uomo semplice e predicatore da donne. L'uditorio non di meno era numeroso e la folla, invitata dal suo nome, accorreva. Vi frequentava fra gli altri la moglie del Bentivoglio, la quale veniva assai tardi e, traendosi dietro un lungo strascico di dame, di cavalieri e di paggi, interrompeva ogni giorno la predica. Questo era uno di quei disordini che il Savonarola non sapeva tollerare. Le prime volte fermò il suo discorso credendo che fosse un rimprovero bastevole. La cosa però procedeva invece più oltre, onde egli fece qualche cenno sul peccato di distorre i fedeli dai loro uffici religiosi. Ma la superba dama, messa in punto, veniva ogni giorno con maggiore strepito e più orgoglioso dispetto, sino a che il Savonarola, trovandosi una mattina nel fervore della predica e venendo secondo il costume interrotto, non seppe più trattenersi e gridò: «Ecco, ecco il diavolo che viene a interrompere il verbo di Dio!» La Bentivoglio fu talmente presa dall'ira che ordinò a due dei suoi staffieri che andassero a finirlo sul Pergamo, ma ad essi mancò in sul fatto l'animo di commettere una tanta enormità. Ella non pertanto fremeva al pensiero d'essere stata umiliata da un frate e mandò due altri dei suoi satelliti perché lo cercassero nella cella e gli facessero qualche grave ingiuria. Ed il Savonarola seppe riceverli con una tale fermezza d'animo e parlò loro con un accento tanto sicuro e quasi imperioso che si lo udirono e si partirono confusi. Per buona fortuna la quaresima era già in sul finire, onde egli ben presto dette il suo addio al popolo. Pure, volendo dare un'altra prova che non si lasciava facilmente spaventare, disse pubblicamente sul Pergamo: «Questa sera piglierò il cammino verso Firenze col mio bastoncello e fiasco di legno ed albergherò a Pianoro. Se alcuno volesse nulla da me, venga prima che io parta. Sappiate però che la mia morte non si deve celebrare a Bologna». A Firenze trovò peggiorato assai lo stato della città, essendo cresciuta l'insolenza di Piero e i mali umori del popolo divenendo ogni giorno più manifesti. Il priore di San Marco doveva trovarsi perciò in condizione assai più difficile. Bisognava tacersi o esporsi ed essere mandato via con qualche nuovo ordine che venisse dai suoi superiori di Lombardia o di Roma. Considerando questo stato di cose, rammentò il Savonarola che la congregazione toscana era stata divisa dalla Lombarda sino all'anno 1448, quando vi fu unita a cagione della peste che aveva in Toscana disertato i conventi. Non doveva quindi riuscir difficile ridurla alla sua prima indipendenza, ora che i frati vi si erano moltiplicati. Si mise dunque con ogni ardore a quest'opera, dalla quale dovevano dipendere tutti i suoi futuri disegni, ed in essa manifestò per la prima volta una grande attività pratica, mentre l'indole leggera ed inconseguente di Piero dei Medici ne risultò sempre più manifesta. Questa Questi infatti si lasciò persuadere a favorire una domanda che era diretta solo a render vana la sua autorità sul convento di San Marco e fece dai magistrati scrivere più lettere all'ambasciatore fiorentino a Roma e al cardinal di Napoli, caldamente raccomandandola. La condotta di Piero era tanto più inesplicabile in quanto che egli si era allora appunto dato a favorire i frati minori, stati sempre nemici dei domenicani e i quali ora, predicando contro agli ordini espressi dalla signoria alla cacciata degli ebrei, avevano fatto nascere in Firenze non pochi disordini. Ma sia che egli non capisse l'importanza della domanda, sia che volesse dispiacere a Lodovico il Moro, signore di Lombardia, certo è che in questa cosa favorì il Savonarola, il quale, profittando del momento, mandò subito a Roma frate Alessandro Rinuccini e fra Domenico da Pescia. Egli era il suo più sincero e ardente seguace. Nato ai piedi della montagna pistoiese, aveva tutto l'ardire e l'audacia di quei montanari. Animo pieno di sincerità e di fede, era tutto entusiasmo e devozione per il Savonarola. Lo credeva un profeta mandato da Dio a Firenze e si sarebbe per lui gettato nel fuoco senza esitare un istante. Questi due frati trovarono a Roma che i favori ottenuti non bastavano a combattere i Lombardi, i quali, per mezzo di Lodovico il Moro, avevano l'aiuto di molti ambasciatori. Onde quella disputa di conventi sembrava essere divenuta un affare di Stato. Da Roma scrivevano perciò al Savonarola che bisognava deporre il pensiero di riuscire nell'impresa, ma egli in risposta diceva loro: «Non dubitate, state forti ed avrete vittoria. Il Signore disperde i consigli della gente e manda per terra i disegni dei principi». Ed in vero la vittoria si ebbe in un modo inaspettato e strano. Il 22 maggio 1493 ogni speranza di successo sembrava perduta. Il Papa, svogliato, licenziava il concistoro, dicendo di non volere per quel giorno firmare alcun breve. Restava solamente il cardinal di Napoli, con cui si tratteneva in discorsi piacevoli ed ameni, abbandonandovisi col solito eccesso della sua indole. Al cardinale parve essere venuto il momento opportuno e cavatosi di tasca il breve, che già era stato disteso, pregava il Papa di firmarlo. Questi sorridendo negava e quegli sorridendo, cavatogli dal dito l'anello, bollava il breve. Non aveva appena finito che, quasi l'avessero saputo, arrivarono messi pesantissimi dei Lombardi con nuove e più valide raccomandazioni. Ma il Papa non volle più udir parola di questo affare, che già lo aveva noiato, dicendo: «Quel che è fatto è fatto». In tal modo San Marco otteneva la sua indipendenza e le parole del Savonarola si verificavano. I Lombardi, rimasti vinti così inaspettatamente, fecero mille tentativi per annullare o almeno scemare la forza del breve e furono in questi favoriti dallo stesso Piero dei Medici, che dopo averli combattuti voleva adesso aiutarli. Ma ormai era troppo tardi. San Marco, divenuto centro di una congregazione, dipendeva solo da Roma. Il Savonarola venne subito rieletto priore e nella sua nuova condizione, libero finalmente e padrone di sé, poteva parlar franco e sicuro, né doveva più riuscire ad alcuno muoverlo da Firenze, sua unica sede. Egli solo aveva sin dal principio capita l'importanza del breve ottenuto, gli altri dovevano avvedersene più tardi. Nuovi e più gravi pericoli si avvicinavano però rapidamente ed il nostro frate vi si apparecchiava. Bisognava innanzitutto riordinare e disciplinare il convento. Una volta egli aveva pensato di ritirarsi coi suoi frati sopra un monte solitario e di ivi menare vita povera e romita, ma ora questi sogni giovanili avevano ceduto il luogo a più mature idee. Si trattava non di abbandonare la società, ma di viverci in mezzo per correggerla, non di formare dei romiti, ma dei buoni religiosi che menassero vita esemplare e fossero pronti a spendere il sangue per salute delle anime. Correggere i costumi, riaccendere la fede, riformare la Chiesa, ecco ciò che il Savonarola voleva promuovere. E quando il Signore avesse adempiuti questi santi desideri, si sarebbe allora partito d'Italia coi suoi più animosi frati per andare a portare in Oriente la religione di Cristo. Costantinopoli era uno dei sogni di quel tempo. I politici volevano umiliare il nemico dell'Europa e ristabilire l'impero latino. I religiosi volevano convertire gli infedeli e rimettere Gerusalemme in mano dei credenti. E moltissimi credevano col Savonarola che si avvicinasse il tempo annunziato nelle profezie e che si dovesse finalmente avere un solo ovile ed un solo pastore. Ma per tornare al convento, la prima riforma che fece il Savonarola fu di rimettere in vigore la povertà. San Domenico aveva con terribili parole minacciata la sua maledizione contro coloro che ardissero introdurre le possessioni fra i suoi religiosi. Ma dopo la morte di Sant'Antonino quelle parole rimanevano solo scritte sulle mura dei chiostri. Il convento di San Marco aveva con una riforma assunto la facoltà di possedere ed in breve tempo erano moltiplicate le sue ricchezze. Il Savonarola dunque chiamò in vigore l'antica Costituzione, ma siccome le oblazioni erano già da tempo scemate, bisognò provvedere in modo da sopperire altrimenti ai bisogni del convento. Ne scemò le spese col vestire i frati di panni più poveri, col rendere le loro celle sempre più semplici e disadorne, col vietare di tenervi libri miniati, crocifissi d'oro e d'argento e simili vanità. Ma ciò non bastava, volle adunque che i suoi frati vivessero col frutto delle loro fatiche e fece quindi istituire delle scuole nelle quali studiavasi pittura, scultura, architettura, arte di scrivere e miniare i codici. I conversi e quei frati che erano meno atti alle più alte opere di spirito dovevano esercitare queste arti per aiutare ai bisogni del convento. I sacerdoti e prelati in tal modo potevano più liberamente attendere alla confessione, aver cura delle anime e dirigere l'educazione intellettuale e spirituale dei novizi. I più provetti nello spirito di carità e nella teologia dovevano darsi alla predicazione e percorrere le varie città accompagnati da un solo converso che non doveva mai tralasciare il lavoro per poter coi suoi guadagni in parte almeno aiutare il compagno. Tre sorta di studi Savonarola promosse di poi principalmente nel convento: teologia, morale e sopra ogni altra cosa lo studio delle scritture, per l'intelligenza delle quali si insegnava il greco, l'ebraico ed altre lingue orientali. E queste lingue dovevano servire anche di più in quel giorno in cui, siccome sperava, egli ed i suoi sarebbero stati dal Signore invitati a portare il Vangelo fra i turchi. Non tutte queste idee si misero facilmente in atto, né tutte restarono senza ostacoli, ma il convento cominciò rapidamente a fiorire. Cresceva il fervore e lo zelo per gli studi, cresceva l'amore per le sacre scritture e lo spirito di religione. Facile riusciva il progredire quando si vedeva il priore essere un modello vivo e parlante dei principi che inculcava. I suoi panni erano sempre i più rozzi, il suo letto era il più duro, la sua cella la più povera. Severo verso gli altri, era severissimo verso di sé. Onde un entusiasmo nacque nel popolo in favore di San Marco. Molti nobili cittadini domandarono di vestir l'abito. Si diceva che Angelo Poliziano e Pico della Mirandola vi fossero assai inclinati, ma quello che è più, queste simpatie erano sorte ancora negli altri conventi. Quelli di San Domenico di Fiesole, Prato e Bibbiena, i due ospizi della Maddalena in Pian di Mugnone e di Lecceto, chiesero di rientrare nella nuova congregazione toscana e furono ricevuti. Le cose arrivarono a segno che i camaldolenzi del monastero degli Angeli stesero per mano di notai un contratto col quale si obbligavano di mutare ordine per riunirsi a San Marco. Il Burlamacchi fu portatore di questa domanda al Savonarola, che però la ricusò perché fuori dal suo arbitrio e dall'autorità concessagli dal breve. Non voleva dare ai suoi nemici occasione di muovergli giuste accuse. Avrebbe bensì desiderato di raccogliere intorno a sé tutti i domenicani della Toscana, ma questo neppure poteva facilmente riuscire a cagione degli odi politici che dividevano quel paese. Infatti noi lo troviamo a Pisa assai male ricevuto, e di 44 frati non poterne avere che soli 4, fra cui primo fu quello Stefano Codiponte di cui abbiamo più sopra accennato. A Siena venne accolto anche peggio, perché ricevette dalla signoria ordine di partire ed egli tornò se ne sdegnato a Firenze, dove la congregazione di San Marco, cresciuta e fiorente, procedeva innanzi, piena di fervore in quelli che ne facevano parte, incoraggiata dalle simpatie di coloro che la circondavano.